Capitolo 4. Discorso sull'anima profonda. Quali sono dunque le caratteristiche dell'io sottile di cui abbiamo parlato in precedenza? Esso è un qualcosa di inconoscibile e impercettibile, ovvero può essere conosciuto dall'io storico e razionale nel quale si identificano la maggior parte delle persone. In realtà, occorre in primo luogo mettere bene in chiaro che l'io sottile si fa conoscere solamente se lui lo vuole e quando lo vuole, e così, come a volte appare e si fa sentire in una persona, può scomparire e occultarsi quando le modalità di vita di essa non sono più di suo gradimento. In genere preferisce sentire, agire e operare restando nascosto, soprattutto quando non è ben sicuro di gradire totalmente la realtà esterna e storica nella quale l'io storico si muove. A seconda del gradimento da parte sua di tale realtà, si manifesterà più o meno con sogni, intuizioni, fortuna, inattaccabilità da parte delle malattie, capacità di conoscere le persone al di là delle apparenze, premonizioni, ma soprattutto gioia di vivere e spontaneità. Si deve però dire che tale io sottile è diverso da individuo a individuo. Può essere forte o può essere debole. Può essere grande o può essere piccolo, può essere potente e può non esserlo, può essere nobile e può non esserlo, in certi casi addirittura può essere positivo o può non esserlo. In realtà è anch'egli un aspetto della natura, e così come in natura esistono animali nobili come il leone o astuti come il furetto o fedeli come il cane o sornioni come il gatto, esistono anche animali poco gradevoli come i topi, le mosche, gli scarafaggi, le zanzare, le sanguisughe e via dicendo. E molto spesso, in effetti, tale parte sottile dell'individuo potrebbe essere riferibile, per chi ha una certa sensibilità e sa vedere e conoscere al di là delle apparenze, a un modo d'essere e di agire caratteristico di un certo animale. Questa similitudine a volte è addirittura visibile nell'aspetto fisico o anche nei modi di muoversi e di atteggiarsi, nonché negli istinti, nelle predisposizioni e in certe abitudini. Forse per questo motivo molti popoli antichi usarono dei nomi di animali come nomi di persone, e del resto ancora oggi alcuni dei nomi che si usano, come Leonardo, Orsola, Serafina, Arturo, Volfango, Rachele, Leonello, Ovidio, Rodolfo e altri ancora, indicano un animale o un modo d'essere di animale, senza che molto spesso, e ciò dimostra quanto oggi si sia ignoranti a proposito di certe cose che potrebbero essere molto più importanti di quanto normalmente si creda, il portatore del nome lo sappia, né il suo io sottile corrisponda in alcun modo all'animale indicato dal suo nome. In definitiva, in quasi ogni persona, dato che alcune sono così poco naturali che viene da pensare che non possano essere classificate secondo questo criterio, potrebbe essere nascosto un animale che, al fine di poter risintonizzare la persona con madre natura, va individuato e trattato poi nel modo più adatto allo scopo di metterlo a suo agio. Dal benessere di questa dimensione sottile, naturale, o di quest'anima perenne, come la definivano gli antichi, possono derivare quei poteri che madre natura dona ai suoi figli, e in particolare può derivare il potere di essere aiutato dalla forza risanatrice di madre natura in caso di malattie o addirittura di rendersi imprendibile da una gran parte di esse. Occorre mettere in chiaro che il fatto di riuscire a sentire dentro di sé ed eventualmente il far riemergere l'istintualità profonda della persona non ha il significato di una involuzione come molti potrebbero pensare. In effetti, il vero naturale è un qualche cosa di puro e pulito e non va certamente confuso con certe dimensioni di caos, di disordine o di violenza subconsci, che sono invece ciò che nel profondo portano molti uomini di oggi. Inoltre, il ritrovare e il far riemergere l'istintualità profonda non vuol certamente dire diventare delle specie di ebeti dalle caratteristiche animalesche, ma bensì delle persone che ritrovano la loro vera natura ed, avendola ritrovata, usano le loro capacità razionali e logiche non più contro natura, come oggi avviene, ma a favore di natura, come tutte le persone dovrebbero fare. Da tale ribaltamento di situazione, ovvero dal fatto di vivere, agire, pensare e operare in funzione della naturalità profonda che si porta in sé, può derivare, quando tale avvenimento non sia un semplice atteggiamento esteriore, ma un vero profondo cambiamento, il potere della guarigione e dell'autoguarigione. Personalmente ho assistito a delle guarigioni da malattie che la medicina scientifica giudicava o avrebbe giudicato assolutamente incurabili, o molto difficilmente curabili, e solo per mezzo di lunghi e dolorosi interventi terapeutici o chirurgici e lunghi e costosi ricoveri ospedalieri che sono avvenute sia perché l'anima naturale aveva ripreso possesso della persona dalla quale si era allontanata e nella quale aveva smesso di far circolare le sue energie benefiche, rinforzanti e armonizzanti, sia perché questa parte sottile era evidentemente molto amata dalla Grande Madre, presumibilmente per motivi di azioni, di scelte, di comportamento da parte dell'anima naturale stessa, in situazioni e in tempi che spesso potrebbero essere fatti risalire a prima della nascita della persona. In effetti non tutte le anime profonde posseggono la stessa fortuna né sono aiutate e soccorse in caso di necessità, nello stesso modo dalla natura, dato che, come ho precedentemente detto, possono esistere delle differenze da anima ad anima, così come anche tra gli stessi animali e anche tra animali dello stesso genere si possono riscontrare differenze caratteriali, emotive e comportamentali. In pratica, è per l'entità sottile che sta dietro all'apparenza effimera dell'io storico, che viene tessuta più o meno la fortuna, e ciò anche in relazione al vissuto in precedenti vite. L'io storico, nel quale si identificano la gran maggioranza delle persone, non conta nulla, dato che non è altro che una maschera destinata a rompersi con la fine del ciclo vitale. Tale maschera è certamente più o meno simile all'anima profonda intorno alla quale si è costruita, ma certamente non è lei, ma un suo riflesso, o se si vuole un burattino o una marionetta della quale la parte sottile dell'individuo dovrebbe tirare i fili. Dico dovrebbe per il motivo che ciò molto spesso non accade, dato che la realtà storica nella quale vive tale maschera, le concezioni e i pensieri che in essa vengono inculcati, le tensioni e le negatività vaganti che generano stati emotivi oscuri e innaturali, i problemi e le difficoltà artificiali che deve affrontare chi vive nell'attuale società, possono, come già ho detto, provocare la caduta di interesse della parte sottile e profonda nei confronti della sua maschera, il suo ritirarsi e lo smettere di agire nella dimensione esterna, se non a livello vegetativo, tenendo in vita cioè l'involucro corporeo nel quale l'io storico si identifica. Tale maschera, lasciata a se stessa, pensa di essere reale e di esistere a tutti gli effetti per il motivo che sente, pensa ed agisce. Probabilmente per una donna il non agire nel mondo attraverso l'io e il corpo al fine di affermare la gioia, la libertà naturale, la spontaneità e la difesa dei valori assoluti rappresentati dalla Grande Madre, dalla quale tutte le anime naturali derivano, è uno dei motivi per i quali l'anima perenne può andare incontro a sfortune, che potrebbero manifestarsi anche in incarnazioni future dell'anima stessa e che sarebbero ovviamente sofferte, spesso senza capirne il motivo e l'origine, dall'io storico esterno. Un altro motivo di sfortuna, a mio avviso assai frequente in questi tempi, potrebbe essere individuato nel fatto che l'anima profonda, qualora l'agire, il sentire e il pensare dell'io esterno diventassero incontrollabili e pericolosi, nel senso di entrare in opposizione o di agire contro le leggi e l'armonia della Grande Madre, non trovasse il coraggio di recidere ogni legame con l'io e con il corpo, ricercando al più presto un'altra incarnazione. In tali casi, motivati forse dalla mancanza di determinazione o dal timore delle sofferenze che anche la dimensione sottile, così come l'io esterno, probabilmente percepisce quando avviene la crisi di distacco definitiva, ovvero la morte, all'anima profonda potrebbe essere imputata la pavidità, ovvero un attaccamento nei confronti della propria immagine esterna che permane anche quando tale immagine va contro le leggi naturali. È evidente che casi di questo genere, se le cose stanno veramente così, sono in questi tempi estremamente frequenti, dato che se l'inflessibilità da parte della dimensione sottile dell'individuo nei confronti dell'io esterno e del corpo fisico nel quale tale io si identifica fosse assoluta, La popolazione mondiale si ridurrebbe probabilmente in modo talmente considerevole da riportare l'umanità a un equilibrio numerico ottimale e naturale con le altre specie animali e vegetali, che in questi tempi soffrono invece per l'enorme e innaturale sviluppo della razza umana. O forse si potrebbe pensare anche a un affetto simile a quello che potrebbe avere una madre per il proprio figlio e che permane anche se esso è malvagio, violento o deforme. In ogni caso, comportamenti di questo tipo non portano fortuna e dato che oggi tali tipi di comportamento sono notevolmente diffusi, ci si può spiegare il motivo per cui le cose nel mondo, per chi sente tali cose e i problemi ad esse relativi dal punto di vista delle leggi della naturalità, non vadano assolutamente bene. Né si può pensare che tali problemi possano essere risolti da azioni individuali o di gruppo o da correnti di pensiero o da movimenti politici. Se e quando verrà il momento, Madre Natura provvederà a risolvere questo problema nei modi più opportuni. Ma certamente si può ritenere che è un compito del medico intuitivo, forse il compito più importante per chi può veramente identificarsi in tale modo d'essere, cercare di risolvere qualche caso di asintonia tra l'individuo e la propria parte sottile, ovvero qualche caso di sofferenza o di latenza dell'anima naturale individuale, se il destino gli dà tale opportunità. È evidente che un'azione di questo genere è molto più importante a tutti gli effetti della semplice cura delle malattie e degli stati di sofferenza da esse causate, dato che operando in tal modo veramente si opera sulle cause e sulle origini nascoste di tutti i malesseri fisici e psichici e non semplicemente sugli effetti da tali cause determinati. Si può affermare che al fine di poter operare in questi termini, si deve per prima cosa cercare di individuare l'anima profonda nascosta dietro l'esteriorità storica della persona. Dopo aver individuato tale anima naturale, si dovrà intuire se il modo d'essere di tale parte sottile è compatibile con il modo d'essere di chi opera, in particolare con la sua parte sottile, dato che la parte sottile della persona sulla quale si deve operare potrà essere aiutata e stimolata soprattutto dalla parte sottile dell'operatore. Quando questa compatibilità, ovvero tale sintonia tra anime profonde esiste, si può cercare di richiamare, e certamente questa è la parte più difficile di tutto il lavoro, la parte sottile della persona, facendo in modo che essa riprenda pienamente possesso dell'io e del corpo dal quale si stava ritraendo. Se si riescono a ricongiungere armoniosamente queste due parti, la persona sulla quale tale ricongiungimento è stato operato cambierà dal punto di vista dell'interiorità radicalmente, dato che ritroverà quella gioia, quell'armonia, quella spontaneità e quei poteri di sentire, di vedere e di poter operare e conoscere al di là dei pesanti limiti della materia di cui sono prigionieri la quasi totalità degli esseri umani. Le malattie, i disturbi occasionali, le influenze avranno poco o nessun potere sui fortunati che riusciranno a raggiungere o ad essere condotti a questo meraviglioso traguardo, così come anche le tristezze, le depressioni, il senso di inutilità, l'ansia, la solitudine, la difficoltà a comunicare con il prossimo o ad essere capiti o apprezzati che caratterizzano il normale modo d'essere dell'attuale umanità. E dei quali tutti prima o poi, in un alternarsi di benessere e di malessere legato agli accadimenti storici, sono preda. Più nulla potranno su chi ha ottenuto questo meraviglioso ricongiungimento. E come verranno giudicati ridicoli o aberranti o limitati o noiosi o devianti certi modi di pensare e di essere, certe filosofie, certe religioni e certe correnti di pensiero che in questi tempi sono considerate la vera chiave per intendere il senso della vita degli uomini moderni. Ma sia ben chiaro che giungere a questo punto, che è molto vicino alla guarigione assoluta, è certamente molto difficile e un lungo viaggio deve essere intrapreso, superando difficoltà e opposizioni di ogni genere, sia esterne, ovvero dovute ad opposizioni critiche, incomprensioni e ostilità degli altri, che magari possono essere dei parenti o dei conoscenti o delle persone che hanno dei poteri sulla persona e che non vogliono che essa cambi, ovvero che diventi veramente libera, sia interne, ovvero dovute a concezioni, opinioni, giudizi nei quali la persona si identifica e che sono in opposizione con il modo d'essere naturale e che quindi chi vuole continuare il viaggio deve sradicare da se stesso, sia sottili, ovvero dovute a negatività incorporee, che possono però cercare di influenzare persone, creare situazioni avverse o cercare di indurre in ogni modo chi cerca di raggiungere tale obiettivo a lasciar perdere e ad essere come tutti gli altri.